1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, siamo qui a leggere i giornali con voi e vi ricordo il tema che affronteremo alle 8:15. C'è una proposta all'interno della discussione delle leggi di stabilità di mettere un tetto agli stipendi d'oro dei manager delle società pubbliche partecipate. In realtà questo tetto c'è già per legge, ma viene parametrato alla busta paga del primo presidente della Corte di Cassazione, circa 300.000 euro, ma viene in alcuni casi disatteso. Ci sono delle deroghe, ci sono i benefit, ci sono cumuli di incarichi che permettono di ovviare a questo. Ebbene, l'onorevole Titti Di Salvo di SEL ha proposto invece di renderlo, come dire, efficace e anche di rispettarlo. Sarà ai nostri microfoni tra un'ora insieme al professor Alberto Saravalle e insieme al corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera Lino Terlizzi, perché lì la questione verrà presa di petto con un referendum. Si voterà in Svizzera il 24 novembre, credo, per porre appunto anche un limite massimo di differenza tra quanto guadagnano i manager e quanto guadagnano i dipendenti. Insomma, discuteremo di questo, di paghe, di salari, di retribuzioni alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 14 novembre, anche oggi come ieri, ogni quotidiano fa una scelta di prima pagina autonoma, nel senso non c'è una notizia che catalizza l'attenzione di più quotidiani. Per il Sole 24 Ore c'è in apertura un'intervista al presidente di Telefonica, Alierta, che parla per la prima volta delle telecomunicazioni italiane. Alierta dice: non saliremo oltre il 15% di Telecom. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, la procedura dell'Unione contro la Germania. Ora l'Europa accusa Berlino, il surplus delle esportazioni frena la crescita degli altri paesi. Per Repubblica, la crisi nel centrodestra, Berlusconi-Alfano, duello finale. Questo è il titolo di prima pagina. E anche l'Unità, la scissione di Berlusconi. Per La Stampa invece, tagli, il governo accelera. Il Messaggero, Alitalia, ecco il piano dei tagli. Approvata la ristrutturazione, 2.000 esuberi, contratti di solidarietà e 200 milioni di risparmi. Il Fatto Quotidiano invece, lo Stato e la mafia contro i giudici scomodi, le minacce di Riina, il PM Di Matteo deve morire. Per Avvenire invece, rischio stabilità, salta la no tax area a 12.000 euro, manca la copertura. Il Giornale invece si concentra sulle spese pazze della Chienghe, dai convegni sui trans alle pause caffè, ecco quanto ci costa il ministro antirazzismo. Per Libero invece se la prende con il ministro Saccomanni, dopo averlo accusato due giorni fa di avere irriso in una cena in un ristorante l'ex premier Berlusconi. Il ministro dalle gambe corte, insiste Libero, Saccomanni a tavola con amici e fa battute pesanti sul Cavaliere. Vabbè, queste alcune delle aperture, allora vedremo anche le altre nel corso della rassegna stampa. Io voglio partire da una notizia, da una ricerca che riguarda i tantissimi immigrati che sono in Italia. È una ricerca che sfata anche qualche malelingua, che sfata qualche luogo comune anti-immigrazione. Il dossier viene presentato sia dalla stampa sia dall'unità in un'intera pagina, un dossier del centro studi IDOS per l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio. Che cosa ha fatto? Ha incrociato, in questo studio si sono incrociate le entrate e le uscite del 2011 per capire quanto gli stranieri in Italia hanno versato in tasse e quanto invece ci sono costati in servizi, eccetera. Ebbene, il bilancio è positivo di 1,4 miliardi ed ecco che titola, per esempio, La Stampa, pagina 12, Immigrati, una ricchezza che vale 1,4 miliardi. O anche l'Unità dedica a questo dossier una pagina dal titolo La nostra ricchezza, l'immigrato fa bene ai conti. La Stampa con Francesca Paci ne parla, pagina 12, Controordine, compagni, gli immigrati non rappresentano una perdita per il nostro paese ma un guadagno netto. Questo secondo questo studio che, incrociando le entrate e le uscite nel 2011, attribuisce alle casse statali un attivo di 1,4 miliardi di euro. In primavera la notizia che tra il 2005 e il 2012 l'Italia aveva sborsato 1,3 miliardi di euro per il contrasto dei clandestini aveva sollevato un vespaio cavalcato dalla Lega. I nuovi dati invece rivelano che solo 2 anni fa, tra contributi previdenziali e tasse, gli stranieri regolari hanno versato 13,3 miliardi più degli 11,9 miliardi spesi nello stesso periodo per loro. Il rapporto disegna dunque un identikit dei nuovi cittadini che nel 2012 erano già oltre 5 milioni, molti dei quali soggiornanti di lungo periodo, ossia con permesso a tempo indeterminato. Più della metà di loro proviene dall'Europa e il 50,3% con una forte componente rumena sceglie di vivere di preferenza al nord, il 61,8% di loro. Molti sono giovanissimi, il calcolo comprende anche 1.150.000 minori tra ricongiungimenti familiari e nati in Italia. Insomma, sebbene parzialmente scoraggiati dalla crisi, gli immigrati vengono in generale per lavorare, fanno gli imprenditori, sono circa 500.000 di imprese straniere registrate in Italia, il 7,8% del totale, che producono un valore aggiunto di 7 miliardi di euro. Sono impiegati nelle cooperative, dove rappresentano il 22% dei 550.000 addetti complessivi, ma soprattutto nei campi il 20% di tutta la manodopera. Ma insomma, questa cifra degli immigrati regolari, ovviamente 1,4 miliardi di saldo attivo tra ciò che hanno versato nelle casse dello Stato e ciò che invece sono costati. Vabbè, trovate sia sulla Stampa che sull'Unità questa pagina. Come trovate già le polemiche per quello che è successo al liceo Mamiani a Roma, dove sia Repubblica sia il Giornale dedicano una pagina, perché nelle giustificazioni, nel libretto degli studenti è apparsa la dicitura anziché mamma e papà o madre e padre, il liceo sdogana le famiglie gay, così titola Repubblica. Al Mamiani, via mamma e papà dalle giustificazioni, spuntano le diciture primo genitore e secondo genitore, genitore 1 e 2. Sara Grattoggi ne parla su Repubblica, pagina 23. A Bologna e Venezia hanno suscitato aspre polemiche. Al liceo Mamiani di Roma è già realtà. Sui libretti delle giustificazioni si chiede la firma del primo e del secondo genitore, non del padre o della madre o del più generico genitore o di chi ne fa le veci. Accade in un istituto storico, appunto il Mamiani, e a cambiare la dicitura ci ha pensato la preside Tiziana Sallusti, che trasecola di fronte alle critiche che piovono soprattutto dal centrodestra e dice: è stata una cosa naturale, nel pieno rispetto del diritto di famiglia, anzi una cosa richiesta dalle stesse famiglie, perché, sottolinea la preside, la famiglia è cambiata, la metà degli studenti vivono in nuclei allargati senza alcun intento di svilire la famiglia, anzi motivando tutto questo proprio per un grande rispetto per tutti i tipi di famiglie, dice la preside. Non parlo solo di quelle con genitori dello stesso sesso, ma di moltissimi alunni con genitori separati o divorziati, spesso con un nuovo compagno che si occupa del ragazzo come un padre o una madre, o degli studenti orfani. Sono realtà delicate, per questo ho preferito una formula generica che non discriminasse o mettesse in difficoltà nessuno. Le polemiche ovviamente subito in Italia si sono acuite. Ecco per esempio il Giornale che dedica una pagina a questo: Roma infrange l'ultimo tabù, scompaiono mamma e papà. A firmare le giustificazioni per le assenze degli studenti dello storico liceo Mamiani saranno genitore 1, genitore 2, e scrive il Giornale: ma mezza capitale insorge. Cari cittadini di Roma, mezza Roma insorge, secondo il Giornale, no? Immagino questo sia il tema certamente che affronterete di fronte a Cornetto e Cappuccio, no? Nei bar, mezza Roma almeno lo farà. Vabbè, voglio solo citare prima della pubblicità che cosa? Questo titolo. Siamo nella 28ª settimana decisiva per l'abolizione delle province e nella 28ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Oggi il titolo del Messaggero a pagina 4 è questo: non ho voglia neanche più di combattere, non ho voglia neanche più di sorriderci. Province, slitta l'abolizione e rischiamo di rieleggerle. Claudio Marincola sul Messaggero. In realtà è un riepilogo di quello che ci ha detto anche il ministro Delrio a questi microfoni qualche giorno fa, e cioè: o si fa entro la fine dell'anno questa riforma incardinata con un disegno di legge che va avanti un po' così a fatica in Parlamento, perché c'è ovviamente la lobby che cerca di fermare questo disegno di legge voluto dal ministro, o entro la fine dell'anno, quindi c'è tempo un mese, o se no si rischia di accelerare quella procedura che porta al rinnovo dei consigli provinciali che scadono, credo, a primavera, e per cui si va alla votazione. Province, slitta l'abolizione, così giura il messaggero. C'è tempo un mese, in realtà, c'è tempo un po' di settimane. Per ora siamo solo alla 28ª decisiva, ovviamente, di questa legislatura. Ora la pubblicità. 24 mattino. Alle 7:34 minuti, eccoci qua, pronti ancora a leggere i giornali. La politica si concentra sempre sullo stesso refrain, almeno fino a sabato, il momento difficile nel centrodestra con la possibile scissione, e il centrosinistra invece che si avvicina sempre più alle primarie per la scelta del nuovo segretario del partito. Questo è il copione, non ci scosteremo da qui per qualche giorno e per qualche tempo. Allora, ieri tra l'altro Alfano e Berlusconi sono visti fino a mezzanotte, un tentativo di ricomposizione in vista del Consiglio Nazionale del partito sabato. Meglio rinviare il Consiglio, ecco la mossa delle colombe, questo è il titolo a pagina 8 del Corriere della Sera, il racconto di Lorenzo Fuccaro. I legali di Berlusconi tra l'altro dicono la grazia è un'ipotesi tramontata, dunque si innesta sulla questione della crisi del partito, la questione della decadenza, che pare peraltro non sarà il 27 novembre ma potrebbe slittare a dicembre. Questo racconta almeno Repubblica, la decisione sulla finale, sul voto finale del Senato sulla decadenza di Silvio Berlusconi, dallo stesso Senato. E, insomma, la mossa delle colombe è questa: meglio rinviare il Consiglio. Sarebbe il ramoscello d'ulivo che Alfano ha presentato ieri a Silvio Berlusconi durante la cena, il che Fitto, che viene considerato il capo invece dei lealisti a Berlusconi, il più acerrimo rivale politico in questo momento di Angelino Alfano, avrebbe detto assolutamente no, ti stanno tradendo, caro Berlusconi. E così, insomma, comunque una serie di retroscena che vanno avanti. PDL sull'orlo della scissione, titola Repubblica pagina 6, Alfano, il governo deve durare, e Fitto, vuoi fare la festa a Silvio. Il retroscena di Alberto D'Argenio, sono più o meno tutti uguali, non è che ci sia un giornale che oggi propone qualcosa di nuovo, forse un po' retroscena di Repubblica pagina 7 con Carmelo Lopapa. Pare che Berlusconi abbia offerto ieri quella che è stata già definita la mozione capezzone a Angelino Alfano. La mozione capezzone, l'escamotage ideato sarebbe quello di annunciare in Consiglio Nazionale sabato prossimo il passaggio a Forza Italia, rivendicare i valori di libertà e le origini del 94, ma sorvolando sul governo e sulla sua decadenza. Farò un discorso alto, ha spiegato ieri ai commensali Silvio Berlusconi, suscitando così le ire dei Falchi e di Fitto in particolare, che ha detto sono dei traditori e se tu accetti di spostare il Consiglio Nazionale ti consegni mani e piedi ai carnefici. Insomma, questa battaglia all'interno del partito. E poi che dire, è un profluvio di giornali che raccontano la storia dei falchetti, coloro che sarebbero i nuovi giovani selezionati e vicini a Daniela Santanchè. Oggi c'è anche un aspirante falco che scrive al Libero, Emanuele Ranucci. Io, aspirante falco, per ora è solo un falchetto, vi racconto come ho avvicinato Berlusconi. Sì, dice questo Emanuele Ranucci, sono uno dei baby falchi, non che questa definizione mi esalti, certo, ma per capirci la userò ugualmente. Devo dire che la riunione di martedì è stata molto interessante, ma per favore non chiamatela cena. No, non si capisce perché non si può definirla cena. Non è stato servito nulla, nemmeno un bicchiere d'acqua, tanto che appena usciti di lì io e gli altri 100 under 30 siamo corsi in un bar per fermare i morsi della fame. Ma chi se ne frega, non lo so. Comunque, insomma, così inizia questo falchetto che scrive a Libero per dire che, insomma, non so se sarà perché deve essere una cosa indegna se gli avessero offerto un piatto di bucatini alla matriciana. Non lo so. Comunque, insomma, pagina 9 di Libero, il falchetto si presenta. E allora La Stampa fa sapere con Francesca Schianchi a pagina 6 che insieme ai falchetti spuntano le colombine. Le colombine, cari ascoltatori, cioè i giovani ufficiali del Popolo della Libertà, le colombine contro i falchetti, che vengono definiti dalle colombine ragazzini senza esperienza. Le nuove leve arruolate dalla Santanchè reagiscono, siete illiberali. Quindi c'è già lo scontro, oltre che tra falchi e colombe nel governo, all'interno del PDL, anche tra falchetti e colombine. Io l'ho detto, insomma, quando ci leveremo a dibattito politico a livello del Burundi avremo fatto un gran passo in avanti, con tutto il massimo rispetto per il Burundi. E in questo l'informazione dei giornali è la prima responsabile, lo dico. Tra l'altro il Partito Democratico invece dall'altra parte si concentra, insomma, sempre più su questa battaglia verso l'8 dicembre, il nuovo segretario da scegliere. I due articoli interessanti che vi segnalo sono Carlo Tecce oggi sul Fatto Quotidiano a pagina 4, auto, telefoni, paparazzi, i timori intorno a Renzi, la moglie inseguita, sms interni al PD, l'ufficio stampa che teme pedinamenti. Insomma, si moltiplicano le foto di Matteo Renzi in giardino senza maglia, Matteo Renzi che va in barca coi bambini, che va a correre nel parco, la moglie Agnese beccata in corsia preferenziale con la monovolume di famiglia. Questo avrebbe generato timori sempre più crescenti all'interno dell'entourage di Matteo Renzi di possibili, come dire, addirittura dossier o comunque foto e pedinamenti non certo molto molto comodi da gestire, anche se da ufficio stampa di Renzi dicono non ha nulla da nascondere. Mentre l'altro articolo che vi segnalo è un'intera pagina di intervista che l'Unità fa a Massimo D'Alema, intervistato da Pietro Spataro. Dice D'Alema tante cose, come c'è una campagna martellante a favore di Renzi ai limiti del ridicolo, e anche De Benedetti che sceglie per Renzi, c'è uno schieramento del potere economico e dei mass media a favore di Renzi che è impressionante, basta sfogliare i giornali, dicono che Renzi ci faccia vincere. Ma vincere che cosa? Dice D'Alema, c'è un equivoco di fondo, non stiamo certo andando alle elezioni, noi stiamo solo scegliendo il segretario del PD. Comunque lui è una risorsa per il PD, ma c'è il rischio che si trovi costretto a venire meno ai suoi impegni o col PD o coi cittadini di Firenze. Quindi critica il possibile doppio impegno. Poi D'Alema fa questa stilettata alla domanda dell'Unità: vede il rischio addirittura di una scissione all'interno del PD? Ma no, nessuna scissione, risponde D'Alema. La gente se ne può andare a casa anche silenziosamente, e se questo accade, se ci sarà insomma un'emorragia di iscritti, sarebbe un problema serio. Poi i gazebo chi li smonta? Flavio Briatore? Così Massimo D'Alema sull'Unità. Parla anche di Romano Prodi, che ha fatto sapere non andrò a votare. L'amarezza che ognuno di noi può avere non giustifica la scelta di non votare. Così Massimo D'Alema, che ha il suo candidato in Cuperlo. Vabbè, la politica è questa, e invece l'economia è quello che c'è sul Sole 24 Ore. Chi lo sa, ce lo svela Mauro Meazza del Sole. Buongiorno Mauro, eccoci qua. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, a tutti. Intanto in apertura un'intervista, parla prima volta il presidente di Telefonica, e dunque Alierta parla di Telecom e telecomunicazioni in Italia. Cosa dice? Ma sostanzialmente dice parecchie cose, perché il lavoro fatto da Antonello Olivieri è ampio. Dice che non sono intenzionati a salire fino al 100%, quindi questo adesso come riflesso sugli utenti, direi che poi sono le cose magari più interessanti in questa fase, è che sono intenzionati a, appunto, avere degli investimenti forti sulla rete, sulla banda larga. Questo mi sembra una buona notizia. Sul comportamento poi finanziario della compagnia vi rimando un po' all'intervista di Antonella, perché la posizione degli spagnoli, appunto, è tutta da gustare, risposta dopo risposta, un po' anche da decifrare, insomma. Certo. Non tutto sarà svelato, insomma, bisognerà capire cosa succederà nei prossimi mesi. Come sempre in questi casi un po', come dire, sovranazionali, sono partiti a scacchi complessi. Qualche volta anziché partite a scacchi sono un po' dei giochi a nascondino, non so se hai letto di Apple, sempre sul sole. E come no, certo. Con questo giochino rivendiamo in Italia, scriviamo il ricavo in Irlanda, insomma. Avrebbe frodato il fisco, avrebbe per 225 avrebbe. Milioni, che non sono quisquiglie, non sono per carità, però c'è tutto un complesso trasferimento, sai, sono questioni quasi filosofiche, il problema, cioè se una cosa può essere considerata ricavo in Italia oppure invece no, se un'operazione può essere considerata imponibile in Italia oppure invece no, e però tra una filosofia e l'altra, come dire, a noi ci mancherebbero dei soldi, dice certo. La Guardia di Finanza, poi per carità. Sicuramente invece sono aumentati gli incassi da addizionali, Gianni Trovati, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, il reddito imponibile è cresciuto di pochissimi punti percentuali, le addizionali cresciute a due cifre. Questo, come dire, forse ce ne eravamo già accorti, molti di noi se ne erano già accorti, brutto vederlo coi numeri, da fastidio. Sì. Le fotografie impietose poi sono sì, quelle sì. Di... Comunque tu hai sempre i 2 euro da parte? Io sempre li tengo finché non... Ecco, oh bravo, perché oggi abbiamo la guida a casa. Sì. E... cioè ci sono tutte le formule innovative di acquisto. Mi compro una casa con 2 euro. Sì, perché con 2 euro non lo so. Non la compri tutta, però puoi non cominciare. Tutta. Guarda, ah beh, sì. Adesso devi anche imparare un po' di inglese, rent to buy, buy to rent. Fidati, vai nella guida casa, sì. Ho fatto 4 pagine per spiegarti come, magari partendo dai tuoi 2 euro, che sì. Tu continua a tenere lì, poi sì. Ti dirò cosa devi farne una mattina di queste, sì. Poi... magari diventare un proprietario immobiliare anche so. di una certa importanza. Posso iniziare dal pomello del rubinetto, potrei con 2 euro magari... Da qualche parte bisogna pur cominciare. Infatti, va bene. Mauro, intanto ti ringrazio, trovate tutti gli approfondimenti ovviamente sul Sole 24 Ore, ci troviamo domattina alla stessa ora e noi andiamo, grazie alle informazioni sul traffico e poi le altre notizie dai giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, intanto Letta si dice ottimista nel 2014, la ripresa è a portata di mano, questo è il titolo a pagina 5 del Corriere della Sera. Segnalo che Repubblica fa sapere che il governo italiano conta con il rientro dei capitali della Svizzera a incassare 5 miliardi di euro. Questa cifra viene messa nero su bianco nell'articolo di Federico Fubini, 5 miliardi dai capitali in Svizzera, sanzioni più basse che in Austria o in Gran Bretagna, intorno al 12% delle somme rimpatriate, in cambio dei nomi dei consulenti che hanno aiutato i clienti a nascondere i patrimoni in Svizzera. Un gettito supplementare per lo Stato che nel 2014 può arrivare intorno ai 5 miliardi di euro e la depenalizzazione dei casi di evasione su cifre elevate pur di invogliare i proprietari di grandi fortune a alzare il velo sui loro fondi all'estero. L'Agenzia delle Entrate e il Governo sono nella fase finale di preparazione delle misure per il rientro dei capitali, ma non sarà uno scudo fiscale, fa sapere Repubblica. Non è prevista tutela dell'anonimato degli italiani che finora hanno nascosto i loro soldi in Svizzera. Formalmente non sarà neppure un condono, ma una sanzione ridotta dopo una dichiarazione volontaria di chi fino ad oggi ha tenuto dei fondi in un paese che tutela il segreto bancario. Di certo però anche questa, come le varie misure di scudo, è destinata a sollevare problemi di equità, perché in cambio delle informazioni su se stessi e coloro che aiutano gli italiani a evadere all'estero, chi ha evitato di pagare le tasse finora se la caverà con multe relativamente basse. Comunque entro il 15 dicembre tutto questo dovrebbe essere messo in chiaro e si conta di incassare 5 miliardi da questo... a questo rientro dei capitali dalla Svizzera. Sempre Repubblica, attenzione, mette in prima pagina il nuovo caso Cancellieri, ministro della giustizia, Cancellieri Ligresti, spunta un'altra telefonata e le chiamate del marito. Paolo Griseri racconta di una terza telefonata tra il ministro Anna Maria Cancellieri e i Ligresti, spuntano anche diversi colloqui del marito della Cancellieri con la famiglia Ligresti, visto che erano anche vicini di casa. la conversazione che viene messa in questione, di cui non si conosce il contenuto ma solo la durata, 7 minuti e mezzo, tra il guardasigilli e Antonino Ligresti, il fratello di Salvatore Ligresti, è del 21 agosto, il giorno prima che Anna Maria Cancellieri venisse interrogata per le telefonate fatte in precedenza. Che cosa si sono detti in quella telefonata? La versione di Anna Maria Cancellieri, gli ho detto in pratica che mi ero informata che avevo fatto quella telefonata ai funzionari del DAP per le condizioni di Giulia Ligresti. Comunque spunta questa nuova telefonata, Repubblica ci dedica una pagina, pagina 11. Vabbè, c'è tutto il tema dell'Europa che non abbiamo affrontato, con l'Europa, l'Unione Europea che ha aperto una situazione di monitoraggio, di un'indagine sulla Germania per il surplus delle esportazioni che frena per questo la crescita degli altri paesi. C'è la reazione molto stizzita di Berlino, tutti i giornali la riportano, addirittura il Corriere della Sera ce la mette come notizia in prima pagina per questa procedura dell'Unione. Vabbè, sorvoliamo sul titolo, come sempre sobrio quando si parla di Angela Merkel, di Libero, che titola pagina 14 "culona sculacciata a tutta pagina". Che dire, vi voglio segnalare intanto le due pagine sul PM, magistrato di Palermo, Di Matteo, dopo le minacce di Totò Riina in carcere. Nel lungo sfogo che è stato ascoltato in carcere, Totò Riina, che già disse voleva andare di Falcone, disse voleva andare a vedere la mattanza dei tonni, ma la mattanza gliel'ho fatta io. Così parlò Totò Riina di Giovanni Falcone, e ora del PM Di Matteo gli faccio fare la fine del tonno come a Falcone. Ebbene, Repubblica intervista anche il PM Di Matteo, che dice: resto a Palermo, non mi nascondo, la gente vuole la verità come me, io ci sono, continuo a fare ogni giorno il mio lavoro, intervistato da Salvo Palazzolo a pagina 15, ho fiducia nelle istituzioni, mi fido di chi si sta prendendo cura della mia sicurezza, ringrazio soprattutto i carabinieri che curano da tempo la mia scorta e rimango sempre colpito dalla grande voglia di partecipare che incontro nelle scuole e nelle università. Insomma, fa capire il PM Di Matteo, anche il clima sembra molto cambiato, sente la solidarietà del paese attorno. Ma certo, sono minacce davvero, davvero inquietanti. Ma voglio chiudere, quando chiudo intendo dire che sono al premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali, vale a dire la carta costa. Oggi va alla Stampa, che parte in maniera seria, e cioè un'analisi dei matrimoni. Dopo decenni tornano a crescere i matrimoni, ma come analizza tutto ciò con un'intervista a Belen Rodriguez, Luca Dondoni, Belen, lei che è fresca di matrimonio. Perché aumentano i matrimoni? Beh, e sentite Belen, siamo diventati schiavi della tecnologia. Ma che cosa c'entra? Ah, boh, non lo so. Mi sa che alla gente è venuta la nausea di questo stordimento da corsa al futuro e all'improvviso abbiamo avuto bisogno di tornare ai valori veri, veri, ce lo dice Belen, i veri valori. Sono certa che se legalizzassero le canne ci sarebbe un enorme calo dei consumatori di hashish o marijuana. Ma che c'entra quei matrimoni? Ma Belen, ma chi se ne frega? Un'intervista a Belen sui valori veri, sui veri valori. Eh sì, la carta costa, giornale radio.